Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni di Salpinaz. Dunque, oggi ascoltiamo tre novità. Sono tre dischi che ho notato un po' guardando le varie classifiche internazionali sui dischi migliori dell'anno scorso. E non li avevo sottolineati a suo tempo, rimango abbastanza perplesso pur apprezzando le qualità di questi lavori. Non credo che siano tra le cose migliori in assoluto, però degni sicuramente di nota. Un po' è rispetto agli stili, per esempio Ben Wendell, il primo dal quale ascolteremo un paio di brani, ha proposto un lavoro. Ben Wendell è un musicista che è entrato dalla porta principale del jazz, fa parte un po' del gruppo di musicisti più apprezzati sia come sideman che come leader. Per esempio Kinibody è sicuramente una delle formazioni migliori anche sul mercato internazionale, e lui suona anche nel gruppo di Christian McBride, che è sicuramente uno dei più titolati nell'ambiente newyorkese, quindi un mainstream di qualità suonato in maniera ineccepibile da Ben Wendell col suo sax. Il disco è intitolato The Seasons, sono 12 brani, appunto, sono i mesi dell'anno. E ascoltiamo un paio di questi mesi, va. Thank you. questo era il gruppo di Ben Wendell, era disco, l'ultimo disco uscito, The Seasons, dedicato ai mesi dell'anno. Quello che abbiamo ascoltato era giugno, poi agosto. Vabbè. E la formazione è interessante, è una formazione che vede Aaron Parks al pianoforte. È uno dei pianisti, per esempio, appunto, tanto per collegarlo allo stesso ambiente di Ben Wendell, è uno dei pianisti più accreditati attualmente, anche decisamente più capaci. Poi si aggiungono anche Gerald Ekeselman alla chitarra, poi al basso Matt Brewer e Eric Harland alla batteria. Quindi sono due, una ritmica, insomma, diciamo, ineccepibile, perfetta. E il risultato è apprezzabile, indubbiamente. Il suono di Ben Wendell è magico, molto, molto accattivante, molto morbido. E questo suo contralto, sempre usato con l'eco, sempre sul fondo, dove sembra che il suono venga da lontano. È una tecnica, è un modo anche per impressionare, per come dire, caratterizzare quello che è il progetto musicale. Altro musicista analogo in qualche modo, anche se diverso stilisticamente, decisamente diverso, si tratta di Ambroise Akimusire, trombettista che ormai da qualche anno si è posto all'attenzione come una delle voci più interessanti nella tromba. Si muove su un territorio molto accreditato, molto, come dire, che ha modo anche di farsi vedere in concerti e con formazioni anche diverse, nel senso che è anche un sideman richiesto, fa parte di varie formazioni. Qui si propone quest'anno, che tra l'altro sorprendentemente a mio avviso ha vinto insieme a pari merito insieme a Wayne Shorter e la classifica per musica jazz dei migliori dischi dell'anno. È un disco interessante, questo Origami Harvest, uscito per la Blue Note, decisamente un prodotto Blue Note, come peraltro anche quello di Wayne Shorter che abbiamo ascoltato qualche settimana fa. È un progetto interessante perché usa una timbrica particolare. Intanto l'utilizzo ormai non originale di un rapper che declina testi in varie parti del disco, che è inteso più come una sorta di suite, quindi brani collegati poi l'uno all'altro. E la formazione è particolare perché appunto c'è un quartetto d'archi. Questo per esempio anche Zenon, Miguel Zenon, che abbiamo ascoltato anche lui qualche settimana fa. È un utilizzo che già anche in passato si è sempre cercato, insomma, un po' tutti i protagonisti del jazz hanno cercato di trovare questa strada che potesse unire il linguaggio jazzistico a quello di un quartetto d'archi o di una formazione che prevede la presenza di archi. Il risultato sta avvenendo sempre più spesso che riesca a funzionare. Il cantante rap è Kool ID, ascoltiamo la batteria anche Marcus Gilmore, sicuramente un pilastro della batteria attuale di quell'ambiente peraltro. Walter Smith III al sax tenore, Sam Harris alle tastiere e appunto il quartetto d'archi che dicevo. Ascoltiamo due brani presi da questo disco interessante, sicuramente interessante, con momenti anche molto belli, altri più di maniera, a mio avviso, però vale comunque la pena di conoscerlo. Tyree Woodson. Victor White the Third. Lopez, Miriam Carey,

Questo era Ambrosa Chimusire con Origami Harvest, un disco abbastanza sorprendente, diciamo, per quanto riguarda gli standard di Chimusire, che ci ha abituati a un linguaggio decisamente diverso da quello che abbiamo ascoltato in questo disco, anche se in diversi momenti, a mio avviso, non riesce a mantenere la tensione e la sorpresa che propone quello che abbiamo ascoltato nei due brani scelti, diciamo. Un altro lavoro interessante, ecco, in questo caso di un musicista decisamente poco conosciuto, perlomeno ai più, nell'ambiente musicale lo è comunque conosciuto, come didatta, soprattutto come didatta. Si tratta di Darrell Katz, un chitarrista, ma anche arrangiatore, compositore, direttore d'orchestra, quindi anche polistrumentista, anche se soprattutto diciamo che la sua attività più riuscita è nell'ambito della scrittura e dell'arrangiamento. Ha anche formato un'orchestra sua, una specie di orchestra scuola, la JCA Orchestra, dove militano anche ragazzi molto giovani che iniziano appunto a farsi un'esperienza di una scrittura a volte anche complessa, comunque molto ricca, e che quindi diventa un punto di riferimento stilistico e di crescita professionale decisamente importante. E produce pochi dischi, diciamo che ne può uscire uno ogni 3-4 anni e non neanche regolarmente. È uscito questo Rats Live on No Evil Star, un disco di un buon livello. Non è niente di eccezionale, però indubbiamente dà prova ancora una volta di avere una creatività nella costruzione, anche nell'immaginazione del progetto discografico complessivo. Sono brani poi che si collegano l'un l'altro e ogni brano è anche piuttosto lungo e con molti cambi di strada durante il percorso, non solo di tempo ma anche di atmosfere, di timbrica. Lavoro interessante dal quale ascolteremo diciamo parti di due brani. Thank you. Thank you. Thank you. Attention is the rarest and purest form of generosity. Molto teatrale questa scrittura, questo modo anche di condurre. Diciamo che suscita immagini sicuramente. Ricordo che il disco è uscito per la JCA Recordings, quindi l'etichetta di Daryl Katz. Era anche l'ultimo ascolto, lo ricordo, il disco Daryl Katz, chitarrista, soprattutto compositore, direttore d'orchestra e arrangiatore con la JC Orchestra e Rats Live on No Evil Star, disco uscito l'anno scorso e apprezzato e votato anche da alcune riviste tra i migliori dell'anno. Era anche l'ultimo ascolto per oggi, vi ricordo che l'intera trasmissione e anche le indicazioni discografiche le potete trovare nel nostro sito Radio Città Fujiko, sezione playlist. Vi ricordo anche che c'è in rete anche una top ten di Salpinaz. Si inizia una tradizione almeno in questo senso, non soltanto nelle trasmissioni, ma anche una top ten, quindi i 10 dischi che sono ritenuti tra i più interessanti dell'anno scorso. Salve a tutti, alla prossima. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Alla console Sandro e Alfredo. Salt peanuts.